Ghafir, il perdonatore. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Hamim. Hamim. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. La rivelazione del libro proviene da Allah, l'Eccelso, il Sapiente. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. Colui che perdona il peccato, che accoglie il pentimento, che è severo nel castigo, il magnanimo. Non c'è altro Dio all'infuori di Lui. La meta è verso di Lui. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. Solo i miscredenti polemizzano sui segni di Allah. Non ti lasciar suggestionare dal loro andirivieni in questa terra. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. Prima di loro il popolo di Noè tacciò di menzogna, e dopo di loro lo fecero i coalizzati. Ogni comunità tramò contro il suo messaggero, cercando di impadronirsene. Polemizzarono con falsi argomenti per respingere la verità. Gli afferrai infine, e quale fu la mia sanzione? قد كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. Si realizza così la parola del tuo Signore contro i miscredenti. Saranno i compagni del fuoco. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Coloro che sostengono il trono e coloro che lo circondano glorificano e lodano il loro Signore. Credono in Lui e invocano il perdono per i credenti. Signore, la Tua misericordia e la Tua scienza si estendono su tutte le cose. Perdona coloro che si pentono e seguono la Tua via, preservali dal castigo della fornace. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدت أَصْلَحْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Signore, falli entrare nei giardini di Eden che hai promesso loro, e a quanti fra i loro padri, le loro spose e i loro discendenti saranno stati virtuosi. Sì, tu sei l'eccelso, il saggio. وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَكِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Preservali dalle cattive azioni, perché in quel giorno colui che avrai preservato dal male beneficerà della tua misericordia. Questo è l'immenso successo. Innalladhina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbar min maqtikum anfusakum idh tud'awna ila al-imani fatakfurun. Verrà gridato ai miscredenti: l'avversione di Allah verso di voi è certamente maggiore di quanto lo era la vostra contro voi stessi, allorché eravate invitati alla fede e la rifiutavate. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. Diranno: nostro Signore, due volte ci hai fatti morire e due volte ci hai fatti rivivere. Riconosciamo i nostri peccati. C'è una via di scampo? ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فالحكم لله العلي الكبير. Questo avviene perché quando Allah, l'unico, era invocato, restavate increduli, e quando invece gli attribuivano associati, credevate in essi. Il giudizio appartiene ad Allah, l'Altissimo, il Grande. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. Egli è colui che vi mostra i suoi segni e vi fa scendere dal cielo una provvidenza, ma se ne ricorda solo chi torna a lui pentito. Fad'u Allah mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun. Invocate Allah e rendetegli un culto puro, nonostante ciò spiaccia ai miscredenti. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. Egli è colui che eleva i livelli più alti, il padrone del trono. Invia il suo spirito su chi vuole tra i suoi servi, così che questi possa avvertire del giorno dell'incontro. Yawma hum barizun, la yakhfa ala Allahi minhum shay'. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. Del giorno in cui compariranno e nulla di loro sarà celato ad Allah. A chi apparterrà la sovranità in quel giorno? Ad Allah, l'unico, il dominatore. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. In quel giorno ciascuno sarà compensato per quello che avrà meritato. In quel giorno non ci sarà ingiustizia. Allah è rapido al conto. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ ولا شفيع يطاع. Avvertili, o Muhammad, del giorno che si avvicina, quando angosciati avranno i cuori in gola. Gli ingiusti non avranno né amici solleciti, né intercessori ascoltati. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Egli conosce il tradimento degli occhi e quel che i petti nascondono. والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. Allah decide con equità, mentre coloro che essi invocano all'infuori di lui non decidono nulla. In verità, Allah è colui che tutto ascolta e osserva. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. Non hanno viaggiato sulla terra e osservato quel che avvenne a coloro che li precedettero, che pure erano più potenti di loro e lasciarono maggiori vestigia sulla terra? Li afferrò Allah a causa dei loro peccati e non ebbero protettore alcuno contro Allah. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Così avvenne perché non credettero nonostante i loro messaggeri avessero recato loro prove inequivocabili. Allora Allah li afferrò. In verità egli è il forte, il severo nel castigo. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. Già inviammo Mosè con i nostri segni ed autorità evidente إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. A Faraone, Haman e Karun. Essi dissero, è un mago, un impostore. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Quando poi portò loro la verità che veniva da noi, ordinarono: vengano uccisi i figli di coloro che credono insieme con lui e lasciate in vita solo le femmine. La trama dei miscredenti non conduce a buon fine. وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. Disse Faraone, lasciatemi uccidere Mosè, che invochi pure il suo Signore. Temo che alteri la vostra religione e che semini corruzione sulla terra. وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر. Disse Mosè, mi rifugio nel mio e vostro Signore contro ogni arrogante che non crede nel giorno del rendiconto. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي. Un credente che apparteneva alla famiglia di Faraone e che celava la sua fede disse: uccidereste un uomo solo perché ha detto Allah è il mio Signore? e nonostante sia giunto a voi con prove provenienti dal vostro Signore? Se mente, la sua menzogna ricadrà su di lui. Se invece è sincero, subirete parte di ciò di cui vi minaccia. Allah non guida chi è iniquo e bugiardo. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. O popol mio, oggi la sovranità è vostra e trionfate su questa terra. Ma quando giungerà il rigore di Allah, chi ci aiuterà? Disse Faraone, vi mostro solo quello che io vedo e vi guido sulla via della rettitudine. وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ. E colui che credeva disse, O popol mio, pavento per voi un giorno come quello delle fazioni. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. Come quello del popolo di Noè, degli Ad e dei Thamud, o di quelli che vissero dopo di loro. Allah non accetta che i suoi servi subiscano ingiustizia. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. O popol mio, pavento per voi il giorno del reciproco appello. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. Il giorno in cui, sbandandovi, volterete le spalle e non avrete alcun difensore contro Allah. Nessuno potrà guidare colui che Allah smarrisce. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ. Già in precedenza, Giuseppe vi recò prove evidenti, ma non smetteste di dubitare di quello che vi aveva portato. Quando poi morì diceste, dopo di lui Allah non susciterà un altro inviato. Allah allontana così l'iniquo e il dubbioso. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. Coloro che polemizzano sui segni di Allah senza aver ricevuto nessuna autorità per farlo, suscitano l'avversione di Allah e dei credenti. In tal modo Allah pone un suggello sul cuore di ogni orgoglioso tiranno. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. Disse Faraone: O Aman, costruiscimi una torre. Forse potrò raggiungere le vie. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. Le vie dei cieli, e ascenderò al Dio di Mosè, nonostante lo ritenga un bugiardo. Così la peggiore azione di Faraone fu resa bella ai suoi occhi. Fu sviato dalla retta via. L'astuzia di Faraone non fu destinata che al fallimento. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. E colui che credeva disse: O popolo mio, seguitemi e vi condurrò sulla retta via. Ya qawmi innama hadhihi al-hayatu ad-dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. O popolo mio, questa vita è solo godimento effimero, mentre in verità l'altra vita è la stabile dimora. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ. Chi farà un male subirà una sanzione corrispondente, mentre chi fa il bene, essendo credente, maschio o femmina, sarà fra coloro che entreranno nel giardino, in cui riceveranno di ogni cosa a profusione. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. O popol mio, perché vi chiamo alla salvezza mentre voi mi chiamate al fuoco? تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. Mi esortate a non credere in Allah e ad attribuirgli consoci di cui non ho conoscenza alcuna, mentre io vi chiamo all'Eccelso, al Perdonatore. La jarama annama tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun fid دنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. Non c'è dubbio che mi chiamate a chi non può essere invocato né in questa vita né nell'altra. Il nostro ritorno è verso Allah e gli iniqui sono loro i compagni del fuoco. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Ben presto vi ricorderete di quel che vi dico. Io rimetto ad Allah la mia sorte. In verità Allah osserva bene i suoi servi. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. Allah lo protesse dai mali che tramavano contro di lui e il peggiore dei castighi avvolse la gente di Faraone. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Vengono esposti al fuoco, al mattino e alla sera. Il giorno in cui sorgerà l'ora sarà detto: introducete la gente di Faraone nel più severo dei castighi. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. E quando i dannati disputeranno tra loro nel fuoco, diranno i deboli a coloro che erano superbi: Noi vi seguivamo. Potreste darci un po' di riparo da questo fuoco? قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. E coloro che erano stati superbi diranno: in verità, tutti noi ci siamo dentro. Allah ha emesso la sentenza sui suoi servi. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. Coloro che saranno nel fuoco diranno ai guardiani dell'inferno: pregate il vostro Signore che ci sollevi dal castigo, anche di un solo giorno. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Risponderanno: non vi recarono le prove evidenti i vostri messaggeri? Diranno: sì. E quelli: invocate allora. Ma l'invocazione dei miscredenti è destinata al fallimento. Inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Aiuteremo i nostri inviati e coloro che credono in questa vita e nel giorno in cui si alzeranno i testimoni. Yawma la yanfa'u dhalimina ma'dhiratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'uddar. Nel giorno in cui nessuna scusa sarà utile agli ingiusti, saranno maledetti e avranno la peggiore delle dimore. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. Già demmo la guida a Mosè e facemmo dei figli di Israele gli eredi della scrittura. Come direzione e monito per coloro che hanno intelletto. Fasbir inna wa'da Allahi haqqun واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. Sii paziente, che la promessa di Allah è verità. Chiedi perdono per il tuo peccato e glorifica e loda il tuo Signore alla sera e al mattino. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Coloro che polemizzano sui segni di Allah senza aver ricevuto nessuna autorità per farlo, non hanno altro che invidia nei loro petti. Non raggiungeranno il loro scopo. Implora dunque la protezione di Allah. Egli è colui che tutto ascolta e osserva. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. La creazione dei cieli e della terra è certamente più grandiosa di quella degli uomini. Ma la maggior parte di loro non sa nulla. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ. Il cieco e colui che vede non sono simili tra loro, né lo sono coloro che credono e fanno il bene e i malvagi. Quanto poco riflettete. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. In verità, l'ora si avvicina, non c'è dubbio alcuno, ma la maggior parte degli uomini non crede. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Il vostro Signore ha detto, invocatemi, vi risponderò. Coloro che per superbia non mi adorano, entreranno presto nell'inferno, umiliati. Allahu alladhi ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi wan-nahara mubsira. إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. Allah è colui che ha stabilito per voi la notte affinché riposiate e il giorno affinché vediate con chiarezza. In verità Allah è colmo di grazie per gli uomini, ma la maggior parte di loro non sono riconoscenti. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. Questi è Allah, il vostro Signore, il creatore di tutte le cose. Non c'è altro Dio all'infuori di Lui. Come potrete lasciarvi sviare? كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. Così se ne allontanano coloro che negano i segni di Allah. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. È Allah che vi ha concesso la terra come stabile dimora e il cielo come tetto, e vi ha dato forma, e che armoniosa forma vi ha dato, e vi ha nutrito di cose eccellenti. Questi è Allah, il vostro Signore. Sia benedetto Allah, Signore dei mondi. Egli è il vivente, non c'è altro Dio all'infuori di Lui. Invocatelo rendendogli un culto puro. La lode appartiene ad Allah, Signore dei mondi. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب Di, dopo che mi sono giunte le prove da parte del mio Signore, mi è stato vietato di adorare coloro che invocate all'infuori di Allah e mi è stato ordinato di sottomettermi al Signore dei mondi. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى فمن قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. Egli è colui che vi ha creati dalla terra, poi da una goccia di sperma e poi da un'aderenza. Vi ha fatto uscire neonati dal grembo materno, perché possiate poi raggiungere la pienezza, e poi la vecchiaia, ma qualcuno di voi muore prima, affinché giungiate ad un termine stabilito. Rifletterete dunque? فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. Egli è colui che dà la vita e dà la morte. Quando decide una cosa, dice solo sì, ed essa è. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ Non hai visto coloro che polemizzano a proposito dei segni di Allah, come si sono allontanati da Lui? الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. Coloro che tacciano di menzogna il libro e ciò con cui inviamo i nostri messaggeri, ben presto sapranno. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. Quando avranno gioghi ai colli e saranno trascinati in catene fil hamim thumma fin nari yusjarun nell'acqua bollente e poi precipitati nel fuoco. Thumma qila lahum ayna ma kuntum tushrikun. Sarà detto loro: dove sono coloro che avete associato nel culto? Min dunillah. Qalu dallu anna bal lam nakun nad'u min qablu shay'a. Kadhalika yudhillu Allahu al-kafirin. All'infuori di Allah. Risponderanno: si sono allontanati da noi. Anzi, non invocavamo altro che il nulla. Così Allah svia i miscredenti. Zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighayri al haqqi wa bima kuntum tamrahun. Ciò in quanto vanamente esultaste sulla terra e perché foste orgogliosi. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Entrate dunque dalle porte dell'inferno, dove rimarrete in perpetuo. Quanto è triste la dimora dei superbi. فاصبر إن وعد الله حق. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. Sii paziente. La promessa di Allah è vera. Sia che ti mostriamo una parte di ciò che minacciamo loro, sia che ti richiamiamo, a noi saranno ricondotti. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. Già inviamo dei messaggeri prima di te. Di alcuni ti abbiamo raccontato la storia, di altri non te l'abbiamo raccontata. Un messaggero non può recare un segno se non con il permesso di Allah. Quando giunge l'ordine di Allah, tutto è deciso con equità, e coloro che proferiscono menzogne saranno i perdenti. Allahu alladhi ja'ala lakum al-an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. Allah è colui che vi ha dato il bestiame affinché alcuni animali siano cavalcature e di altri vi cibiate. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. E affinché ne traiate altri vantaggi e conseguiate loro tramite qualche desiderio che vi sta a cuore. Vi servono inoltre da mezzo di trasporto, al pari delle navi. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. Egli vi mostra i suoi segni. Quali dunque dei segni di Allah negherete? أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. Non hanno viaggiato sulla terra e visto quel che avvenne a coloro che li precedettero e che pure erano più numerosi di loro, più forti, e lasciarono maggiori vestigia sulla terra? Quel che avevano acquisito non fu loro di nessuna utilità. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Quando i loro messaggeri recarono le prove evidenti, si rallegravano della scienza che già possedevano, e perciò li avvolse quel che schernivano. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. Poi, quando videro la nostra severità, gridarono: crediamo in Allah, l'unico, e rinneghiamo coloro che gli avevamo associato. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. Ma la loro tardiva fede non fu loro di nessuna utilità dopo che ebbero visto la nostra severità. Questa è la consuetudine di Allah nei confronti dei suoi servi. Saranno perduti i miscredenti.